I lavori di domani di Anna Marino. Avete mai pensato di tornare bambini e tornare a costruire? Un po' come una volta si faceva con i Lego e ancora adesso si utilizzano i Lego. Paradossalmente il digitale, la tecnica, la robotica ci ha portato indietro a pensare di costruire con le proprie mani addirittura la tecnologia. Ecco, avete mai pensato di imparare a costruire un robot? Noi abbiamo qui una professione che è una professione di adesso e una professione del futuro. Un lavoro di adesso e un lavoro del futuro. L'insegnante di robotica. Valeria Cagnina ha appena 18 anni e ha imparato fin da quando era piccola come si costruiscono i robot e ce lo può raccontare. In che cosa consiste questo lavoro di oggi e di domani? Nell'insegnare robotica, nel trasmettere tramite la robotica, che è la mia passione, tantissime soft skill un po' a tutti, a partire dai bimbi molto piccoli di 2-3 anni, arrivare a ragazzi più grandi, adolescenti, ma anche adulti, insegnanti o manager aziendali. Lavoriamo un po' con tutti per permettere alle persone di scoprire la propria passione e trasformare questa passione in un lavoro per essere felici ogni giorno di quello che fanno nella loro vita. Un po' come il Lego, si impara e si pensa con le mani. Tu quando hai iniziato, visto che hai questa sensibilità di parlare e insegnare ai bambini addirittura di 3 anni a costruire un robot, quando hai iniziato? Io ho cominciato quando avevo 11 anni e ho scoperto la robotica al Coderdojo di Milano grazie a una pianta digitale, che era una semplice pianta disegnata sullo schermo di un computer che era capace di interagire con l'ambiente circostante tramite Arduino, una piccola scheda elettronica. Quindi questa pianta era capace di essere più felice o più triste in base se era da sola o se c'era qualcuno insieme a lei nella stanza. A me questa pianta è subito piaciuta un sacco e volevo anch'io costruire qualcosa con Arduino. Mi sono fatta prendere il kit base e dopo aver fatto qualche semplice progetto sono arrivata a 11 anni a costruire il mio primo robot da sola, seguendo dei video su YouTube. Che cos'è questo kit? Arduino è una scheda elettronica molto piccola, delle dimensioni di una carta di credito, che si possono collegare tantissimi componenti che possono essere LED, motori, sensori, per farla interagire con l'ambiente circostante. Quindi si possono costruire robot, domotica, controllare un giardino, si può fare veramente qualsiasi cosa, basta avere tanta fantasia. Fondamentalmente abbiamo capito che è un po' come un Lego digitale. Come si costruisce appunto un robot? Si può costruire in maniera semplice. Noi facciamo costruire robot anche semplicemente partendo solo da un motore e una pila. Quando tu riesci a far funzionare questo motore grazie alla pila, poi puoi costruire la struttura del robot con qualsiasi materiale, anche con materiali di riciclo, che può essere un barattolo o dei bastoncini, delle cannucce. Li assembli come vuoi e il robot si muove, puoi fargli le ruote oppure può muoversi anche solo per vibrazione. Allora, io vengo nel tuo campo e lo chiamo robot e vogliamo capire in cosa consiste il tuo lavoro, cioè la tua giornata tipo. Ti alzi e? Non c'è proprio una giornata tipo, perché ogni giorno è sempre diverso ed è questo rende divertente il nostro lavoro. Io e il mio socio Francesco Baldassarre andiamo un po' in giro ovunque, ogni volta siamo in parti diverse d'Italia, d'Europa, a fare eventi con bambini e ragazzi, quindi a fare laboratori più pratici, oppure facciamo degli speech motivazionali, dei team building con delle grandi aziende, e oppure altre volte siamo in ufficio a progettare attività nuove, robot nuovi, per offrire sempre qualcosa di nuovo e sempre novità. Perché si guadagna anche con questo mestiere, con questo lavoro. Qual è la forchetta di guadagno? Noi siamo partiti circa ufficialmente con l'azienda, bisognava aspettare i miei 18 anni, quindi Off Passion è partita da quando ho compiuto 18 anni, e però lavoriamo già da 2-3 anni e la nostra azienda è sempre stata senza nessun problema sostenibile, non abbiamo avuto fondi esterni. Come, quando, dove ti sei formata? Ho cominciato facendo tantissima formazione online si trovano tantissimi tutorial per imparare, e poi a 15 anni sono stata all'MIT di Boston in un progetto universitario come senior tester. Ho passato 3 mesi a Boston con borsa di studio e lì ho lavorato in un progetto in cui dovevo semplificare i tutorial per la costruzione di un robot, per renderli fattibili anche da ragazzi delle superiori. E poi lì ho scoperto che l'educazione poteva essere divertente, che si poteva imparare giocando, che non bisognava per forza annoiarsi come in Italia. E da lì poi è nata la scuola di robotica ed è diventata con le nostre 10 regole, che abbiamo delle 10 regole molto particolari. Trasmettiamo tutte le competenze in modo completamente diverso da una scuola normale. Facciamo attività per terra, senza scarpe, in cerchio, sempre con l'Learn by Doing, quindi con attività pratiche, senza lezioni teoriche noiose. La scuola dove si trova e dove è nata? La scuola è nata e si trova ad Alessandria. Praticamente noi facciamo tante attività in sede, soprattutto facciamo per esempio laboratori domenicali per bambini e ragazzi o anche per adulti. C'è tutto il calendario sul nostro sito offpassion.tech, e poi andiamo in giro ovunque ci chiamino a fare attività, sia in eventi privati delle aziende, un po' con tutti, dai piccoli ai grandi. I campi estivi, la scuola durante l'anno ed estate, come funzionano? Come vi organizzate? Sì, abbiamo tante attività diverse. Possono, una delle attività più brevi che facciamo, che organizziamo nella nostra sede, è quella da 3 ore, che è dedicata a 6 bambini, oppure altre volte dedicata agli adulti. E in queste 3 ore, la domenica pomeriggio, cominciamo con i bimbi con una scenetta introduttiva in cui ci trasportiamo in un altro mondo fantastico, oppure con i più grandi con uno speech motivazionale, e poi costruiamo il nostro robot che poi portano a casa. Invece nelle attività più lunghe di una giornata o di una settimana intera, come durante l'estate nei summer camp, alla robotica vengono unite anche tante altre attività per stimolare tante capacità che ci sono nelle persone a 360 gradi. Quindi per esempio nei camp facciamo al mattino robotica, al pomeriggio facciamo giochi, sport, piscina, caccia al tesoro, riflettiamo con i ragazzi su tematiche come felicità, libertà, per dargli la possibilità sia di sperimentare robotica ma anche tantissimi altri campi che faranno parte della loro vita, e speriamo in qualche modo che possano scoprire la propria passione e trasformarla nel proprio lavoro. E nelle aziende che cosa fate? Nelle aziende invece facciamo dei team building che durano di solito una giornata, in cui facciamo all'inizio uno speech motivazionale e poi dopo anche loro costruiscono il robot per poi fare attività creative, divertenti, e alla fine facciamo un resoconto, un briefing finale in cui capiamo insieme cosa possono portare in azienda da questa giornata che alla fine per loro è stata giocosa. Ci puoi fare un po' la spiegazione, l'abecedario di coding e scratch, queste parole che di solito si sentono ma nessuno sa che cosa significano? Coding è la programmazione di qualcosa, che può essere sia la programmazione sul computer ma anche usare il computer per programmare un robot. È un modo per scrivere al computer un algoritmo che gli permetta poi di svolgere determinate azioni. Bisogna usare un linguaggio che abbia una precisa sintassi, e poi adesso stanno diventando sempre più semplici, che per esempio con cose come Scratch, che semplicemente spostando dei blocchetti si può scrivere programmazione e creare un videogioco. Questo è quello che si impara un po' in questi Coder Dojo, cioè in questi laboratori. Il Coder Dojo è una community a livello mondiale che organizza degli incontri nelle varie città per avvicinare in maniera semplice bambini e ragazzi al mondo del coding e della robotica, e sono brevi esperienze in cui ai bambini viene data una semplicissima infarinatura di cosa è il coding. Puoi dare dei consigli su come si apprende, a parte i tutorial ma anche un po' i siti, qualche indirizzo utile? Non c'è esattamente un indirizzo preciso, basta andare su YouTube o cercare tutorial di robotica e si trovano tantissime cose, tante ispirazioni per costruire dei robot. E sicuramente quello che bisogna credere è che niente è impossibile, bisogna essere davvero tanto determinati, come dice la prima regola della nostra scuola, e poi bisogna aver voglia di provare senza aver mai paura di sbagliare. La prima cosa che sarebbe utile costruire, o che fate costruire anche a un bambino, cos'è? In 3 ore un bambino anche di 3 anni è in grado di costruire e portare a casa il proprio robot. Ci puoi spiegare per esempio un robot che può essere costruito, insomma ce lo racconti, visto che non lo vediamo magari lo puoi raccontare? Dall'inizio, quando costruiamo un robot, si inizia a collegare il motore alla batteria, noi utilizziamo un elastico per farlo, e poi dopo che sia il motorino che gira funzionante, gli si può o attaccare delle ruote che possono essere fatte con dei tappi, con dei pezzi stampati in 3D, oppure altre volte al motore si attacca una rondella, qualcosa di questo tipo, per farlo vibrare molto di più e poi far muovere un oggetto che può disegnare, volare, saltare, correre. Ogni volta fa una cosa diversa. I giocattoli si possono anche creare da soli e soprattutto anche per gli adulti è un modo anche per imparare a avvicinarsi al digitale, perché in questo momento sembra diciamo una montagna da scalare, mentre in realtà è molto utile e non esclude il fattore umano, così come si dice. Però è molto importante per chi vuole fare, come hai fatto tu, sapere dove si trova il lavoro. È un lavoro gettonato? Ti sei resa conto che state avendo un boom di richieste? Dove si può trovare magari un'application? Qualcuno che cerca un insegnante di robotica o qualcuno che cerca una professionalità come la tua? La nostra azienda è un po' particolare, non ce ne sono in giro di aziende come la nostra, perché noi siamo focalizzati un po' sulla robotica, però soprattutto sull'insegnare competenze umane, soft skill alle persone, quindi usare la robotica come mezzo per trasmettere creatività, problem solving, team working, competenze che oggi servono sia ai bambini che agli adulti per entrare nel mondo del lavoro. E sicuramente cerchiamo sempre un sacco di persone che vogliano far parte del nostro staff. E voi potreste anche formarle? Sì, noi formiamo senza problemi il nostro staff sempre. Allora diamo anche l'indirizzo dove possono trovarvi. Noi siamo su offpassion.tech. Che cosa devono avere queste persone per lavorare nel campo della robotica, insomma, e essere formate anche da voi? Devono essere sicuramente molto curiose, interessate. Poi in un mondo del lavoro che continua a cambiare non devono volere per forza un lavoro dal lunedì al venerdì con il classico orario d'ufficio, perché molto spesso il nostro lavoro è anche nel weekend, alla sera, o ci sono volte come durante Summer Camp che è 24 ore su 24, e poi devono essere molto curiose e determinate a imparare cose nuove ogni giorno e formarsi sempre su attività nuove. Si può imparare anche a distanza? Sì, noi impariamo tantissime delle nostre competenze, le impariamo online con dei tutorial, dei video, seguendo dei corsi anche universitari che vengono rilasciati gratuitamente da anche molte importanti università in giro per il mondo. Curiosità, dopo il vostro laboratorio, un bambino o un adulto, com'è? Nella maggior parte dei casi sono molto felici e entusiasti di quello che sono riusciti a costruire in pochissimo tempo, e nella maggior parte dei casi soprattutto i bambini vogliono subito tornare, e molti tornano, e tutti i robot che costruiscono li portano a casa.